Salvadanaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, benvenuti a Salvadanaio. Faremmo volentieri a meno di ripensare a quel frangente, ma ci ricordiamo bene cosa è successo con il crack di Lehman Brothers, una circostanza che alla fine di settembre rischiò di far tracollare il sistema finanziario mondiale. Di sicuro mandò in tilt milioni di risparmiatori in tutto il mondo e qualche decina di migliaia di risparmiatori italiani che avevano investito direttamente in obbligazioni Lehman o indirettamente tramite polizze indicizzate alle obbligazioni di questa banca americana. Si verificò anche un altro incidente, molti ascoltatori sono pronti a ricordarlo, si scoprì che anche nella giornata del fallimento le obbligazioni Lehman risultavano ancora pubblicate come obbligazioni a basso rischio sul sito di Patti Chiari, questo consorzio bancario appunto dedicato proprio all'educazione finanziaria. Da quel momento sono divampate le polemiche su questo servizio, l'elenco di queste obbligazioni fu cancellato dal sito, ma qual è la novità di oggi, anzi di ieri? È che l'elenco ricompare nel sito di Patti Chiari, da qualche ora c'è un'area con tutte le informazioni relative a circa 2000 obbligazioni circolanti in Italia. Allora, qual è lo spirito di questo servizio? Questa mattina ce lo racconterà Filippo Cavazzuti, il presidente del consorzio Patti Chiari. Professor Cavazzuti, che è già in diretta collegato con noi, non l'abbiamo ancora, ma fra un po' lo raggiungeremo. Ma dobbiamo parlare anche di un altro tema, a prescindere da questa novità in questo servizio. Il mercato è inondato di obbligazioni in questo momento. Molte società stanno scegliendo appunto di puntare sul mercato perché le banche non fanno credito, non ne finanziano per i propri investimenti, per cui si cerca di appunto fare raccolta tramite il mercato. E allora, come risparmiatori, come ci dobbiamo comportare verso questi strumenti di investimento? Questo tra l'altro sarà anche domani il tema, uno dei temi prescelti da Plus 24 in edicola con il Sole 24 Ore. Noi, oltre a Patti Chiari, abbiamo con noi Paolo Zucca, vice caporedattore di Plus 24 del Sole 24 Ore, e Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana. Come sempre ci piacerebbe che ci aiutaste a vivacizzare la trasmissione con le vostre domande. 800 24 00 24, il numero verde per voi, per le vostre prenotazioni, ma ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Allora, prima di intraprendere la nostra conversazione sul tema di stamattina, un'occhiata al mercato azionario. Ne abbiamo già dato qualche indicazione nel corso del GR. Abbiamo un rialzo corale tra i listini del vecchio continente, più 0,7% a Parigi, Francoforte e Londra, mentre oggi Milano rimane proprio un po' indietro, più 0,05% sulle FTSE MIB. I titoli che stanno determinando questa debolezza di Piazza Affari sono Intesa, quindi quasi molti titoli del settore bancario. Intesa meno 1,89, il Banco Popolare meno 1,65, Mediolanum meno 1,13, ma anche CIR perde oltre 1,5%, Campari meno 0,8, UbiBanca meno 0,6%. Acquisti invece quest'oggi su Prismian, miglior titolo della seduta, più 2,5%. Fondiaria più 2, Atlantia più 1,92, Ansaldo più 1,60, Terna più 1,57 e anche due titoli del settore bancario, per cui non vanno tutti male. Il settore oggi è contrastato: Monte dei Paschi più 1,37, Popolare di Milano in rialzo di un punto con Parmalat. L'euro sul dollaro stamattina è a quota 1,41, quindi la moneta unica europea torna a rafforzarsi sul biglietto verde. Oggi abbiamo molti dati dagli Stati Uniti, ma soprattutto più che molti indicatori di qualità, perché abbiamo ancora nuove statistiche sull'andamento del mercato immobiliare americano. Il petrolio è a $61 al barile e ancora ovviamente riflettori puntati sulle trimestrali. Ieri sono stati rassegnati i dati di JP Morgan, di IBM, che sono risultati appunto favorevoli al mercato, tanto che anche ieri sera Wall Street appunto ha chiuso positivamente con un rialzo di oltre un punto sui principali indici. Direi che però possiamo lasciare la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, continuiamo a parlare di mercato, ma in particolar modo di quello obbligazionario. Guardare oltre la crisi, cercare rendimenti interessanti e investimenti alternativi alle borse ancora volatili. Sono queste le ragioni che hanno spinto grandi e piccoli investitori italiani a tornare alla carica sul mercato dei bond. Tanto che nel primo semestre dell'anno, secondo Fitch, si è registrato un vero e proprio boom di emissioni di obbligazioni societarie. 11,8 miliardi di euro, circa il triplo di quanto le aziende italiane hanno emesso in tutto il 2008. Un trend che, secondo gli esperti, è destinato a proseguire nel corso del 2009, tanto che si potrebbe archiviare l'anno superando il risultato del 2004, il secondo miglior anno di sempre, quando furono collocati bond per 20 miliardi. Anche se, secondo gli esperti, un limite tutto italiano è che sono ancora poche le aziende che si rivolgono ai mercati per raccogliere fondi. ma qualcosa da questo punto di vista ultimamente sta iniziando a muoversi. Dopo alcuni big di piazza affari come Eni e Finmeccanica, anche le aziende del Made in Italy come Bulgari e Campari sono scese in campo per batter cassa sia tra investitori istituzionali che tra il pubblico retail. Tutto dunque sembra indicare che la scottatura e i timori derivanti dal crack di Lehman Brothers, che ha coinvolto anche migliaia di obbligazionisti, si stiano esaurendo. E proprio a tutela della trasparenza delle obbligazioni e di una maggiore sicurezza nei confronti dei risparmiatori, il consorzio Patti Chiari ha lanciato uno strumento rivolto a tutti gli investitori che consente tra l'altro di valutare le informazioni relative a circa 2.000 bond circolanti in Italia. Un primo passo utile dunque per valutare con attenzione l'investimento che si intende fare. 800 24 0024, il numero verde per i vostri interventi in diretta. I vostri interventi invece tramite il numero di SMS possono essere fatti al 349 238 6666. Allora, buongiorno e grazie di essere tornato da noi al professor Filippo Cavazzuti, presidente del consorzio Patti Chiari. Presidente, mi sente? Benissimo. Buongiorno. Sì, questa mattina la tecnologia ci è un po' contraria, ma noi ce la faremo naturalmente. Allora, qualche minuto di tempo, poi c'è un tandem perché concluderemo la trasmissione invece con Massimo Roccia, che è del Consorzio Patti Chiari e segretario generale, ma andiamo subito a raccontare ai nostri ascoltatori in che cosa consiste investimenti informati. Lo so che a lei non piace ricordarlo, però noi dobbiamo fare il nostro dovere di giornalisti, ricordare del crack Lehman Brothers che aveva portato a cancellare dal sito di Patti Chiari l'elenco delle obbligazioni a basso rischio. Adesso ci si riprova a documentare i risparmiatori su questo segmento di investimento, però con un criterio completamente nuovo. Qual è, professor Cavazzuti? Questo criterio è quello di informare, è un servizio informativo e non è un servizio di consulenza, è un servizio che dà le informazioni all'intero mercato su circa 2.000 obbligazioni quotate sui mercati regolamentati. Sottolineo l'importanza di questo perché queste informazioni sono date gratuitamente a tutto al mercato. Se uno di noi volesse cercare quelle informazioni dovrebbe aprire un mutuo per chiedere su 2.000 obbligazioni qual è il rating delle società di revisione. Il fatto che noi lo si dia gratuitamente, il massimo di trasparenza possibile, significa che abbattiamo una delle principali barriere all'efficienza dei mercati, cioè il costo di raccolta delle informazioni. Queste informazioni sono gratuite, tutti possono accedere per avere un'idea, non ripeto un investimento, per avere un'idea per fare un investimento effettivamente consapevole. Quindi insomma la differenza rispetto al passato è proprio questa, anche se poi in realtà anche lo spirito precedente, professor Cavazzuti, della pubblicazione delle obbligazioni a basso rischio non era esattamente un indirizzo all'investimento per l'investitore. Infatti io devo dire, lì ci fu qualche equivoco che era nato, ma anche allora Patti Chiari non ha mai consigliato un investimento. Comunque, voglio dire, Patti Chiari non è uno strumento per collocare obbligazioni, i consigli li dà la banca, noi diamo le informazioni. Il risparmiatore con tutte le informazioni si dovrà rivolgere alla banca e chiedere di acquistargli o non acquistargli un certo titolo. Teniamo anche presente che il set informativo è tale che cadono un altro dei problemi dei mercati finanziari, cioè le asimmetrie informative. Il risparmiatore dispone sostanzialmente delle stesse informazioni che ha il venditore di quel titolo e quindi il rapporto fra banca e impresa diventa molto, fra banca e cliente diventa molto più chiaro. Beh, questa è veramente, come dire, una novità rivoluzionaria, professor Cavazzuti, mettiamo addirittura sullo stesso piano. È un obiettivo molto ambizioso. Per adesso diciamo ovviamente un obiettivo, poi vedremo naturalmente se funziona. Vi terremo sotto controllo con grande attenzione. Lei, ho visto che nel comunicato stampa che ha messo a disposizione appunto della stampa evidentemente questa novità, ha richiamato anche l'intervento del presidente della Consob di qualche giorno fa alla relazione annuale di Cardia. Siamo stati fortunati perché non ci eravamo messi d'accordo nel momento in cui il presidente Cardia richiama l'importanza per questo flusso importante di obbligazioni che vengono collocate, una maggiore trasparenza e semplicità dell'informazione, noi per questo piccolo segmento di mercato, che sono le 2.000 obbligazioni quotate, abbiamo punto era un lavoro da 8 mesi che ci lavoravamo, cioè, però a questo punto va esattamente nella direzione richiesta dal presidente Cardia. In realtà investimenti informati è qualcosa di più ampio rispetto all'aspetto che abbiamo indicato fino a questo momento. Ci sono due sezioni, certo. Si tratta appunto della ricerca a titoli per quello che riguarda gli strumenti obbligazionari, le 2000 certo. obbligazioni circolanti in Italia, e poi c'è l'altra area dell'educazione finanziaria. Qui come avete lavorato? Ed è questo il compito del primo, cioè per apprezzare l'informazione occorre anche avere un minimo di educazione finanziaria, in cui noi insistiamo molto sui concetti base. Attenzione, caro risparmiatore, a un rendimento più elevato corrisponde un rischio più elevato, e non dimenticare mai di diversificare il tuo titolo, cioè di non mettere tutte le uova nello stesso paniere, per usare una espressione. Allora, queste sono le informazioni, poi c'è la spiegazione dei termini, cos'è un'obbligazione, cos'è un'azione, cos'è un rating. C'è anche un glossario che spiega. La finanza purtroppo è un argomento difficile, molto tecnico, quindi riuscire a dare anche delle informazioni di base su il linguaggio che usano gli economisti mi pare importante. Professor, segnalando sì. sempre una cosa, che non esiste un titolo a rischio zero. E questo non è per cattiveria di qualcuno, è semplicemente che gli eventi possono essere tali che nessuno li poteva prevedere, certo. come il caso Lehman, il caso famoso Lehman. Cigno nero. Anche se poi nessuno prevede un cigno nero. Il dibattito è ancora in corso su quanti invece avevano già indicato da tempo che la banca navigava appunto in condizioni finanziarie molto precarie, e quindi insomma abbiamo quello, inutile fare dietrologia, piangere sul latte versato. Purtroppo adesso c'è da gestire anche tutta la marea dei risparmiatori che ancora hanno questo investimento incagliato in portafogli e probabilmente rimarrà tale. Un'ultima considerazione, professor Cavazzuti, poi vado avanti senza di lei nella trasmissione per poi appunto richiamare però Massimo Roccia. Cosa si aspetta lei da questa novità? Perché dobbiamo ancora cancellare questa macchia di Lehman Brothers, chissà quanto ci vorrà. Molti risparmiatori sono ancora molto scettici intorno al servizio e all'utilità di patti chiari. Senta, io l'unica cosa che posso dire è provatelo, voglio dire, andate a guardare, e se avete delle osservazioni su delle cose che non sono chiare, sappiatecelo dire. Questo è il massimo che abbiamo potuto fare per, ripeto, dare delle informazioni corrette. Sottolineando ancora una volta che dare delle informazioni corrette non significa consigliare. Allora noi ricordiamo qual è il sito: www.pattichiari.it, investimenti informati, il nuovo servizio che mette a disposizione della comunità finanziaria ma anche della comunità degli investitori questo percorso info formativo sugli strumenti di investimento. Andate a vedere come funziona il nuovo panorama dei titoli obbligazionari, la novità appunto che come dire è l'eredità rispetto alle obbligazioni a basso rischio, quella parte del sito che fu cancellato in seguito a Lehman Brothers e al fallimento della banca americana. Professor Cavazzuti, la ringrazio per essersi ritagliato questi minuti per noi e ci risentiamo presto per naturalmente poi raccontare agli ascoltatori come sta andando. Perfetto, benissimo. A presto, buon lavoro. Buon lavoro, Paolo Zucca. Allora, voi domani ritornate su questo argomento, anche tu hai intervistato Cavazzuti, ho visto, e insomma, giustamente abbiamo dovuto raccontare anche di questa novità, però io non è perché adesso è andato via Cavazzuti, voglio fare la cattiva, la simpatica, la spiritosa con voi. No, però ha detto delle cose sensatissime. Sensate, il tema è non utilizzare questa panoramica di informazioni come unico, come dire, veicolo per trovare le informazioni che ci servono quando scegliamo un investimento. Sono cose sensatissime, però bisogna ricordare alcune cose, che quando si parlava di bollino blu, non ce lo siamo inventati noi giornalisti, ma era una linea che passava in patti chiari, che dava questa indicazione di obbligazioni assolutamente sicure, e così venivano vendute alle banche. Un secondo aspetto che riguarda questo progetto, che evidentemente è riduttivo rispetto a quello precedente, qui si parla di informazioni, lo si dice chiaramente, nessuna consulenza. Vado poi a vedere all'interno del prodotto che viene messo a disposizione, ad esempio sui rating, poi ce lo spiegherà perché Massimo Roccia, sì. C'è soltanto una società di rating. Esatto, adesso vedi, non ci ho pensato perché altrimenti già Cavazzuti si poteva chiedere, però abbiamo... No, ma voglio dire, ma sono osservazioni, guarda, io vorrei mettere subito in chiaro che noi abbiamo seguito con grande simpatia tutto il progetto Patti Chiari. Abbiamo visto anche il gravissimo incidente su Lehman, che evidentemente ha mostrato un non funzionamento. affronti una situazione straordinaria, ma complessivamente noi siamo, diciamo, sosteniamo questa iniziativa Patti Chiari, perché no? No, tra l'altro c'era anche altro aspetto che Cavazzuti sottolineava, secondo il quale adesso il sito mette a disposizione dei risparmiatori alcune informazioni che altrimenti sarebbero reperibili solamente a pagamento. Per esempio, il rating di un'obbligazione lo si conosce solo a pagamento. Che girando per siti vari la si ritrova. Certo, la comodità di aggregarle sicuramente. Ecco, questo è il punto. Si ritrova in maniera un po' più semplice. Beh sì, noi vediamo anche su altri temi o proposte a Patti Chiari che c'è una certa chiarezza informativa. L'incidente è avvenuto sul ruolo di Patti Chiari, che appunto non è di consulenza, non c'è un consiglio di Patti Chiari, c'è un'informazione di Patti Chiari. Pietro Poletto, non le chiederò niente su Patti Chiari perché so già come la pensa, ma non è neanche questo il motivo per cui l'abbiamo chiamata qui a Salvadanaio. 2000 titoli obbligazionari circolanti in Italia, sono una parte minima rispetto agli strumenti obbligazionari che sono messi a disposizione del pubblico indistinto. Beh, assolutamente sì. I titoli in circolazione in Italia obbligazionari sono molto di più. Il problema vero è che il numero dei titoli quotati sul mercato regolamentato, in particolare di Borsa Italiana, sono un numero minimale rispetto a questa massa di titoli che sono in circolazione. Ovviamente il tema della liquidità, che poi anche queste obbligazioni che vengono collocate presso il pubblico risparmiatore, evidentemente la carenza sollevata dal presidente della Consob è un tema molto importante. È ovvio che queste cose poi emergono drammaticamente quando poi magari uno è costretto a vendere la propria obbligazione, poi fa fatica a trovare dei prezzi che siano coerenti col cosiddetto valore reale che dovrebbe avere quell'obbligazione, per cui rischia di avere anche delle perdite in conto capitale rispetto a quello che era il proprio investimento. Il problema della scarsa liquidità è un problema che riguarda solo il mercato italiano, ma è un problema che riguarda tutto il segmento di investimento di cui stiamo parlando? È ovvio che la liquidità è un concetto, potremmo parlare delle ore sulla liquidità. È ovvio che la liquidità ci può essere a seconda dei prodotti, a seconda degli emittenti e delle condizioni di mercato, e questo può variare notevolmente in diversi periodi della vita di un prodotto. Ovviamente, tanto per fare un esempio, per farci capire, le obbligazioni ENI che sono state collocate di recente non credo che abbiano questo problema. No, è stato un grande successo, un'obbligazione di un emittente corporate italiano, direi il primo emittente azionario blue chip che è entrato sul mercato retail obbligazionario, che ha avuto un successo direi enorme. Ricordiamo che a fronte di 2 miliardi di emissioni divise tra equamente da tasso fisso e tasso variabile, la richiesta è stata quasi 3 volte, 5,8 miliardi di euro. Vuol dire che al di là della campagna pubblicitaria che lei ne ha fatta attraverso i media, però c'è la necessità anche di poter diversificare con nomi corporate come in questo caso l'ENI, che hanno un merito di credito importante, che fanno un'attività assolutamente solida rispetto a quello che è il tradizionale investimento sui titoli di Stato, alla luce anche dei rendimenti che sono scesi e che ovviamente sono raso terra praticamente. Ovviamente l'investitore, in un'ottica proprio di diversificazione del proprio portafoglio, giustamente ha assolutamente interesse a trovare e arricchire il proprio giardinetto di portafoglio investito con altri nomi. Un paradosso, tra l'altro, mi viene in mente sulla base di questo ragionamento che stava facendo Pietro Poletto, Paolo Zucca, che nonostante sia un mercato poco liquido, un mercato che non ci dà la possibilità di individuare con chiarezza i prezzi di questi strumenti di investimento, in realtà poi quando arriva una società italiana con un'emissione molto importante, il risparmiatore italiano invece corre verso questo prodotto, pertanto ci sarebbe tutto l'interesse del mondo a renderlo assolutamente fruibile nella miglior maniera. E quello che abbiamo visto in questi giorni, poi adesso con Edison abbiamo visto società molto note al risparmiatore italiano arrivare sul mercato. C'è un comportamento del risparmiatore in questo momento che abbiamo individuato molto nitido: ci si fida degli istituti, ci si fida delle società corporate che in qualche modo si ritiene di conoscere. Io non dico che si conoscono, perché a certe volte c'è la percezione di conoscere queste società, ma che si ritiene di conoscere che cosa fa Eni, cosa fa Edison, eccetera. Quindi ci si va con il cuore aperto, mi verrebbe da dire. Ovviamente l'hai già detto tu, ci sono dei rendimenti di titoli di Stato schiacciatissimi, quindi questo porta a cercare delle differenziazioni. Per questo hanno successo. Certo, ma come viene percepito, Pietro Paoletto, l'investimento nel settore obbligazionario? Perché anche qui forse spesso c'è un po' di di confusione. Si percepisce come l'investimento che garantisce un reddito fisso, in realtà anche lì teniamo conto che in realtà è un prodotto che comunque è oggetto e soggetto a tutte le oscillazioni di mercato, e come tale appunto ne subiamo le conseguenze quando una fetta del nostro portafoglio è indirizzata lì. Beh, ovviamente l'investimento in obbligazioni, come in qualsiasi altro strumento finanziario, deve essere ponderata sulla base della propria, da un lato, propensione al rischio e dall'altro quali sono le proprie esigenze di cassa di investimento nel proprio orizzonte temporale. Per cui se facendo e banalizzando, un investitore deve comprare la casa in giro di 6 mesi, non ha senso investire parte del proprio patrimonio su obbligazioni con una durata a 15 anni, perché ovviamente poi dovrà smobilizzare l'investimento e si trova soggetto anche alle oscillazioni del mercato, del prezzo, che conseguentemente si può muovere a seconda dell'andamento dei tassi. Per cui bisogna, come spesso dico, fare da un lato un'analisi molto ponderata di quali sono le esigenze personali, perché va bene i consigli e le informazioni che si possono raccogliere sui giornali, sui siti specializzati, ma poi bisogna anche calarle queste informazioni all'interno delle proprie esigenze. Dall'altro bisogna anche conoscere il funzionamento dei prodotti finanziari che si vanno a sottoscrivere, nonché le regole di funzionamento dei mercati dove questi prodotti sono quotati. Per cui il consiglio che do sempre di rivolgersi a prodotti che sono quotati sul mercato ufficiale, mercato di borsa, che è sicuramente trasparente, permette di controllare quotidianamente l'andamento degli scambi dei titoli, per cui uno può in qualsiasi momento verificare qual è il prezzo che può realizzare dovesse disimpegnare il proprio investimento, o qualora di suo interesse comprare ulteriori obbligazioni di un determinato titolo. In più, sul nostro sito ci sono un sacco di informazioni totalmente gratuite relativamente ai prodotti quotati. Siete praticamente bravi quasi quanto Pattichiari, mi sta dicendo. Beh, insomma, questo lavoro lo facciamo da molto prima. Molto più tempo. No, tra l'altro, allora adesso io devo dare la linea ad Alessandra Tedesco per le anticipazioni del GR Extra Large, però mi incuriosiva questo aspetto che lei ha detto. Andiamo a monitorare il nostro investimento sul mercato obbligazionario controllando piattaforma di borsa. C'è la questione anche dei circuiti alternativi dove questi strumenti è possibile negoziarli, e quindi mi stavo chiedendo se fosse una piccola polemica la sua rispetto a queste alternative, TLX tanto per capirci. Eccoci ritrovati in diretta, oggi parliamo di mercato obbligazionario perché ci sono tante novità, e sicuramente quella che ha guadagnato un po' di più l'onore della cronaca delle ultime ore è quella relativa al fatto che il consorzio Pattichiari ha lanciato il nuovo servizio informativo gratuito Investimenti Informati, dove è possibile accedere anche alle caratteristiche di 2000 titoli obbligazionari circolanti in Italia. Perché ne parliamo? Perché, come ricorderete, dopo l'incidente di Lehman Brothers a fine settembre, il sito Pattichiari, che ancora nella giornata del fallimento promuoveva a pieni voti questo titolo, aveva cancellato il sito obbligazioni a basso rischio. Adesso ci si riprova mettendo a disposizione dei consumatori, degli investitori, dei risparmiatori informazioni di tipo diverso rispetto a quanto non si facesse prima, uno strumento di comparazione delle obbligazioni. Poi ne torneremo a parlare con Massimo Roccia, segretario del Consorzio Pattichiari. Adesso alcune domande di alcuni ascoltatori che giro a Paolo Zucca, vice caporedattore di Plus 24 del Sole 24 ore, e Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana. Gianni da Bari, benvenuto. Gianni, non saluti i suoi amici, è in diretta con noi. Vabbè, Gianni si è distratto, lasciamolo stare. Patrizia da Roma. Pronto, buongiorno. Buongiorno Patrizia. Senta, io volevo sapere questo. Innanzitutto, che differenza c'è tra obbligazioni e azioni? Ho capito solo che sono le obbligazioni sono meno rischiose delle azioni, ma sì. Quanto? Dunque, io a gennaio mi sono trovata una certa sommetta in mano, è ignorantissima in materia, non sapevo cosa fare, chiaramente sotto al materasso non ci mette. Sono andata in banca e Banca Popolare mi ha non obbligato, però mi ha suggerito in maniera magari un po' calda, un po', insomma, esatto. L'ha invitata caldamente a sottoscrivere esatto, delle obbligazioni. Quando io ho chiesto ma cosa compro, cosa non compro, perché in questi 6 mesi Radio 24 è stata molto utile, Non mi hanno detto niente, non mi hanno risposto, non so, io non so cosa ho comprato, non so niente. Beh, Patrizia, però lei mi scusi una cosa, adesso non è che voglio infierire, ci mancherebbe altro, il massimo rispetto, perché poi magari lei conosce molto bene un altro argomento del quale noi tre qua in studio non sappiamo niente, e quindi è giusto che ognuno, voglio dire, come dire, rivendichi il diritto alla propria ignoranza, dico io. Però lei quando va al supermercato, voglio dire, banalmente, sa quello che compra, non è che prende proprio ad occhi chiusi, si mette il paraocchi davanti. No, se non aveva la consapevolezza di quello che comprava, si poteva far aiutare da qualcuno, aspettare un momentino, non era credo obbligata. No, perché altrimenti questa somma io la devo restituire mano a mano in 4 anni. Al che mi ha detto così ci guadagni un pochino tu e poi praticamente... Vabbè, allora adesso poi quelle che sono le scelte sue della sua famiglia non è naturalmente nostro compito giudicarle. Allora, partiamo allora dall'ABC, tanto per far capire, Patrizia, che tipo di strumento di investimento ha scelto per accantonare questo denaro. Io, dice, non so quale sia la differenza fra un'azione e un'obbligazione. Professor Poletto, devo farla salire in cattedra adesso e quindi lei mi aiuta a spiegare alla nostra ascoltatrice. Beh, intanto un'obbligazione è un titolo di debito che una società può emettere per finanziarsi. Questo è un titolo che può avere una cedola, un tasso di interesse che va a remunerare il capitale che il sottoscrittore presta di fatto al emittente di questo. Quindi in sostanza è come se Patrizia avesse prestato del denaro alla banca. Assolutamente. Ha prestato i propri soldi alla banca e la banca gli ha dato un titolo rappresentativo di questo prestito. E a una determinata scadenza, verrà restituito alla signora l'importo che ha prestato più un ammontare che è la cosiddetta premio sulla base del fatto che la signora ha prestato questi soldi alla banca, che è dato da un interesse che può essere un interesse cedolare a tasso fisso, a tasso variabile, può essere pagato in un'unica rata alla fine del prestito piuttosto che semestralmente, annualmente, ci sono diverse tipologie. Insomma. Certo, infatti. No, tra l'altro lei, da quello che ho potuto capire, Patrizia, anche molto emozionata, ha scelto un'obbligazione della banca nella quale si è fatta fare la consulenza. L'obbligazione bancaria adesso è quanto di più diffuso ci sia sul mercato, Poletto? Sì, sono molto diffuse e il problema è che è sempre meglio preferire quelle obbligazioni che bancarie sono però quotate sul mercato ufficiale, proprio per un'ottica di trasparenza, perché il mercato ufficiale, come dicevamo prima, consente di avere maggiori informazioni anche relativamente al prodotto che si va a sottoscrivere, ma anche relativamente all'andamento dei prezzi di questo prodotto nel corso della vita del prodotto stesso. Quindi l'obbligazione bancaria, tra l'altro, Paolo, obbligazioni bancarie molto diffuse, dicevo con Pietro Poletto, tanto diffuse al punto che hanno provocato il crollo della raccolta dei fondi comuni di investimento, anche questo è stato un segnale piuttosto curioso del nostro mercato, diciamo degli ultimi 2 anni. Sì, le per banche hanno... ci sono 2 componenti, uno c'è questa forzatura delle banche sui propri prodotti e dall'altra una certa delusione per il comportamento della gestione dei fondi comuni, quindi le due cose si mettono assieme. Mm-hmm. Diciamo, il fronte del risparmio gestito dice che le banche hanno scelto di vendere le proprie obbligazioni per scelta, diciamo, economica interna. Si dice anche che i fondi comuni abbiano deluso molto. Infatti. No, per rassicurare naturalmente Patrizia, poi io non so in termini semplici come poterle dire più di così che cos'è un'obbligazione, però il tema è anche che adesso le obbligazioni delle banche sono tranquille, sono degli strumenti di investimento tranquilli, per quanta tranquillità possono avere adesso gli strumenti di investimento in una fase che è ancora piuttosto incerta. Però Paolo, adesso abbiamo anche le garanzie dello Stato, perlomeno le promesse di garanzia dello Stato qualora una banca fallisse, uno scenario che comunque ormai credo di poter dire abbiamo accantonato del tutto. Ma io direi di sì, però il ragionamento è quello che faceva appunto prima, cioè se uno un risparmiatore ha in mente di portare a termine la vita dell'obbligazione, può fare 2 conti. Se invece dovesse trovarsi nelle condizioni di dover vendere, non essere su un mercato trasparente può essere un grave problema, perché il prezzo di rivendita a metà della vita o a 3/4 della vita di questa obbligazione può essere un problema. Certo. Quindi può esserci una perdita. Può esserci una perdita, però insomma vorrei rassicurare Patrizia che ha fatto Poletto, sì, un investimento magari non per niente consapevole, questo dobbiamo bacchettare la nostra ascoltatrice, però No, direi un commento più generale rispetto alla signora. La cosa che a me sorprende molte volte è che l'investitore italiano, almeno la gran parte, dedica pochissimo tempo alla gestione dei propri risparmi. Magari si passa tantissimo tempo nella scelta della nuova autovettura, sì, questo, o dei vestiti, o un parallelo che facciamo sempre. E lo so, però devo dire, poi magari si investe i propri soldi faticosamente sudati in pochi minuti in un rapporto così frettoloso col funzionario di banca o in qualche altro modo. E questo, devo dire, è un grosso limite del mercato italiano. Ovviamente gli sforzi che anche noi come Borsa Italiana stiamo facendo nei confronti dell'educazione degli investitori, però evidentemente è solo un primo passo. È evidente che anche l'investitore deve, come dire, dedicare del tempo a un investimento, è un lavoro, per cui o uno ha tempo di farlo o è meglio che si rivolga a dei professionisti che lo fanno di mestiere. Infatti. Stefano da Pescara, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere informazioni in merito a imprese italiane quotate all'estero, gli famosissimi over the counter, obbligazioni che poi danno, per esempio Fiat scadenze 2011-2013, che danno dei consistenti investimenti. Quando ci si può fidare di queste obbligazioni? Che danno dei consistenti rendimenti, Stefano? Sì, 5, guardi, attualmente Fiat 2011 siamo intorno al 5,60. Quindi, grazie Stefano. Sentiamo Pietro Poletto, che questo mercato lo conosce molto bene, peraltro vive metà della sua vita a Londra, per cui ancor meglio ci aspettiamo da lui. Che cos'è l'over the counter? Beh, l'over the counter sono tutte le negoziazioni che vengono fatte tra operatori professionali su strumenti che sono negoziati appunto all'esterno di circuiti ufficiali o su piattaforme relative allo scambio di questi titoli tra operatori professionali. Tornando in particolare a quanto diceva l'ascoltatore, all'interno anche dei segmenti di Borsa Italiana, del mercato MOT, che ricordo il mercato delle obbligazioni di titoli di Stato, abbiamo anche un segmento che si chiama Euromot, dove appunto è dedicato alla negoziazione di eurobonds e titoli governativi esteri e quant'altro. Abbiamo anche obbligazioni della Fiat, che citava, come di altri emittenti corporate, che appunto ovviamente Fiat è un nome importante nel panorama corporate italiano, però ovviamente rientra in un settore sicuramente non... Che non vive adesso uno stato di salute particolarmente assolutamente brillante. Al di là che probabilmente Fiat è messo molto meglio rispetto a altri competitors del settore, proprio alla luce anche delle operazioni che ha fatto, però evidentemente il premio al rischio di andare in un settore che non naviga in ottime acque evidentemente è maggiore, per cui la motivazione è quella, per cui il discorso dell'investitore va visto. Io posso tranquillamente all'interno della diversificazione del mio portafoglio prendermi magari maggiori rischi con un emittente che evidentemente remunera di più, però deve essere diversificato all'interno di un portafoglio, per cui posso tranquillamente giocarmi questo rischio. Però in soldoni il ragionamento che faceva l'ascoltatore è che su questo segmento transitano i titoli che comunque incorporano dei rischi più alti, è corretto? Beh, ovviamente il mercato poi esprime sempre il fair value, il valore reale dell'emittente in base poi a quello che è la struttura dell'emissione, che appunto a seconda della durata della cedola che va a pagare o della struttura dell'obbligazione stessa, per cui evidentemente incorpora il prezzo corretto dato anche dal rendimento e dal rischio che l'emittente va a esprimere. Allora, insomma, a prescindere al nome che abbiamo fatto, che è Fiat, se non ci fidiamo tanto, voglio dire, di queste alternative rispetto al mercato che c'è più vicino, ma perché lo dobbiamo scegliere, quindi prendiamoci qualcosa di più tranquillo, più vicino a noi, per quanto anche qui chissà la tranquillità se ci possiamo confidare del tutto. Rimettetevi le cuffie perché stiamo ripartendo e tra l'altro Pietro Poletto mi stava facendo anche un po' un elenco delle altre società che sono pronte a sbarcare sul mercato obbligazionario. Noi abbiamo parlato della grande operazione di Eni poco fa, che è sicuramente quella che ha destato, definirla attenzione nell'ultimo mese è davvero un eufemismo, praticamente la domanda da parte dei piccoli investitori è stata tripla rispetto ai titoli messi in offerta dal gruppo. Ma quali altre aziende sono pronte? sono sulla rampa di lancio, Poletto? Indiscrezioni di giornali ce ne sono state tante, per cui da stessa Fiat, la stessa Enel, la stessa Telecom, ma dati certi, ovviamente io parlo sempre sulle cose che abbiamo già assolutamente deliberato all'interno di Borsa Italiana. Assicurazioni Generali ha recentemente avuto l'approvazione per l'emissione di un programma di obbligazioni retail, per cui è un nuovo nome importante che si affaccia sul mercato obbligazionario dedicato al retail. Ricordo anche Royal Bank of Scotland, uno dei principali istituti bancari inglesi, che ha utilizzato il mercato MOT proprio per distribuire e collocare in Italia diversi prestiti obbligazionari, che hanno avuto un notevole successo, tenendo conto anche che Royal Bank of Scotland adesso è controllata dal governo inglese, un'ulteriore garanzia, insomma. No, tra l'altro poi tutto questo aspetto delle garanzie intorno ai titoli obbligazionari ci viene un po' contestato da Alessandro dalla provincia di Modena. Però Alessandro, io le devo chiedere solo un momentino di pazienza, perché devo salutare Massimo Roccia che ci ha raggiunto, segretario generale del Consorzio Patti Chiari. Roccia, bentornato. Buongiorno a voi. Buongiorno, allora io vado subito al nocciolo della questione. Abbiamo già nella prima parte della trasmissione spiegato ai nostri ascoltatori in cosa consiste lo spirito della vostra nuova iniziativa Investimenti Informati. Ne abbiamo parlato per sommi capi con il presidente del consorzio Filippo Cavazzuti. Adesso con lei vorrei andare un po' più nel dettaglio di questo nuovo strumento online che è appunto sul vostro sito. Investimenti Informati, lo abbiamo già detto, è un'iniziativa che fornisce tutte le informazioni anagrafiche di rischio relative a 2000 titoli obbligazionari. Le chiedo intanto se questa ricerca, io ho la schermata di fronte a me, quindi la posso documentare all'istante, se questa ricerca di questi titoli è semplice, dottor Roccia. Sì, lo è, perché consente ai clienti di avere due modalità di ricerca, una attraverso l'ISIN, quindi un cliente che ha già fatto un acquisto o che ha visto un titolo già codificato con questo codice praticamente, che è un po' la targa del titolo, oppure una ricerca cosiddetta avanzata dove si può selezionare i titoli sulla base di alcuni parametri come il paese, il settore, l'emittente, oppure qualcosa che non riguarda l'emittente ma il titolo, come la frequenza delle cedole o il tipo tasso variabile, zero coupon, tasso fisso o la scadenza. E questo restituisce come risultato della ricerca tutti i titoli che hanno quelle caratteristiche. Cliccando poi su ciascuna riga di questa lista, il cliente accede ad una schermata che è proprio una vera e propria schermata descrittiva del singolo titolo, fatto in due blocchi: una prima parte con le informazioni anagrafiche che contiene descrizione, scadenza, valuta, indice di riferimento, spread, paese emittente e così via, e una seconda parte, o il mercato di quotazione, e una seconda parte che riguarda invece gli indicatori finanziari, che sono quattro: due riferiti al rischio di credito, e che il primo è l'indice di insolvenza derivato dai contratti CDS quotati sui mercati, e il secondo il rating di Moody's, e due di mercato che sono il VAR e la duration. Mi scatta la prima domanda, me l'ha suggerita prima Paolo Zucca, dottor Roccia, perché allora già ci lamentiamo spesso del fatto che i rating alle aziende quotate vengono attribuite da sole tre agenzie di rating che hanno questo praticamente un monopolio diviso in tre per l'attribuzione appunto di questi del merito di credito. Perché ne avete scelta solo una? Perché ritenevamo che, essendo questo strumento destinato al retail, quindi ai clienti individuali, non fosse un grande vantaggio per loro riuscire a penetrare la differenza di giudizio tra tre soggetti, tutti comunque vigilati. Quindi, secondo noi, mentre per gli analisti, per gli operatori professionali ci possono essere sfumature nella differenza di giudizio che loro riescono a tradurre in un beneficio, per un cliente retail è difficile avere una competenza così spinta da riuscire a cogliere le differenze. Paolo Zucca, noi ci chiedevamo prima, relativamente alla comparazione delle obbligazioni di cui ci interessano le informazioni, se la comparazione era possibile su un'unica schermata? Sì, no, francamente appunto sono alcune curiosità tecniche che però sono utili, credo, anche per chi ci ascolta. Beh, francamente avere tre agenzie di rating è sempre meglio che averne una, comunque. E il secondo aspetto era la possibilità di vedere su schermata, mi sembra aver capito di sì, prodotti omogenei, e quindi in qualche modo poterli comparare in un'unica schermata e magari anche averli con una classifica che ognuno si può utilizzare, un Excel per intenderci. Dottor Roccia. Quello che noi abbiamo è che una volta inseriti i parametri di ricerca, in una schermata c'è la lista delle obbligazioni che rispettano quei parametri, ma quando poi apriamo la schermata, per un fatto anche proprio di dimensioni dello schermo, riusciamo ad avere un solo titolo per ogni schermata, ma siccome abbiamo deciso di non mettere i numeri ma di mettere delle barre colorate che sono un po' più evidenti anche ai clienti, io credo che passare da un titolo all'altro determini una immediata percezione di come questi indicatori di rischio e quindi queste barre colorate cambiano passando da un titolo all'altro. E questo è un consiglio buono che noi recepiamo per il futuro e ci studiamo magari sopra. Benissimo, allora sentiamo invece Rodolfo da Rovigo, che come Alice nel Paese delle Meraviglie, e di questo ne siamo molto contenti, forse non aveva mai addirittura sentito parlare di patti chiari, perché ci chiede di fare un passo indietro enorme. Rodolfo, buongiorno. Sì, buongiorno. No, in realtà io avevo sentito parlare di patti chiari già da tempo, anche perché mi sembra che fosse nata la luce della ribalta quando appunto dopo il crack di Argentina e di Parmalat. Sarà contento il dottor Roccia, 6 anni di lavoro praticamente cancellati nel giro di mezza giornata. No, perché patti chiari erano andati in funzione in quel momento, perché allora le banche hanno detto facciamo questa lite in maniera che gli investitori che non sapevano niente possono andare a pescare lì e tranquillamente a cuor sereno sono tranquilli dei loro investimenti, va bene. Però io volevo fare una domanda essenzialmente. Questo consorzio da chi è comandato? È una società a fine di lucro? Chi ci sta sopra? Questo volevo capire, per capire, perché se c'è qualche banca dietro alla fine non c'è mica forse un conflitto di interessi. No, chiari è emanazione del sistema bancario, Rodolfo, ci mancherebbe altro, perché chi vuole che lo faccia. Poi le loro iniziative sono state fatte in molti casi con molte associazioni dei consumatori, tutti... Quindi c'è un conflitto di interessi, perché loro alla fine, voglio dire, vendono delle obbligazioni che poi consigliano. No, aspetti Rodolfo, Patti Chiari non vende niente, è solamente uno strumento di informazione finanziaria. Sì, però la percezione che abbiamo noi risparmiatori... Ah, perché questo dice, insomma, visto che è delle banche... Come... Massimo Roccia, non è un'obiezione proprio sciocca quella che fa. Una domanda... È molto intelligente. Corretta. Allora, Patti Chiari è un consorzio di banche, quindi finanziato tramite contributi delle banche che decidono di aderire, e ha come scopo quello di produrre strumenti di informazione per i clienti, quindi non vende assolutamente nessun prodotto, non è che esiste uno sportello Patti Chiari o un sito dove si vendono i prodotti, e strumenti che facilitano lo spostamento dei clienti da una banca all'altra, quindi le iniziative per la mobilità dei clienti. La terza cosa che facciamo è dare al mercato dei portali, dei motori di confronto sui prodotti più importanti come per esempio i conti correnti o i mutui. L'indipendenza è affrontata, diciamo, e secondo noi e secondo il giudizio delle autorità risolta dal fatto che Patti Chiari è controllato dal punto di vista dell'indipendenza da due comitati indipendenti dove non ci sono le banche, ripeto, non ci sono le banche, ma ci sono gli espressione di 13 associazioni dei consumatori e professori accademici che vengono nominati congiuntamente dalle banche e dai consumatori. Quindi Patti Chiari è controllato da due organi indipendenti multi-stakeholder dove sono presenti le associazioni dei consumatori. Sono oltre 160 le banche italiane, quindi che rappresentano il 70% dell'intero sistema bancario italiano nel consorzio Patti Chiari, però in marzo, dottor Roccia, lo ricordiamo che una 50 di queste hanno deciso di uscire dal consorzio non soddisfatti di tutta una serie di cose che stavate facendo, fra cui per esempio l'adeguamento ai cosiddetti 30 impegni di qualità. Adesso, a prescindere dal fatto di quella polemica che lascerei lì, che avete affrontato a tempo debito, i 30 impegni di qualità come stanno procedendo? E che cosa sono? Ricordiamolo, spiegamolo magari rapidamente anche ai nostri ascoltatori. Sono iniziative di trasparenza informativa, di comparabilità e di trasferibilità, cioè di mobilità attraverso procedure elettroniche che consentono ai clienti di andare direttamente alla nuova banca e trasferire automaticamente dalla vecchia alla nuova il conto corrente, il mutuo e tra poche settimane anche il dossier titoli. Quindi questi impegni servono questo a facilitare... Questo ci interessa molto, perché continuano a scriverci che è difficilissimo fare il trasferimento a zero costi come molti ascoltatori, appunto, come molti consumatori ritengono di poter fare alla luce di normative recenti. È difficilissimo perché trasferire i titoli da un dossier all'altro implica un forte processo di identificazione della proprietà dei titoli, e se i titoli non sono dematerializzati implica il trasferimento fisico. È ancora più complicato se il cliente ha un titolo non dematerializzato all'estero, perché questo implica l'intervento di altri soggetti depositari esteri. Quello che stiamo facendo, e che funzionerà da gennaio del prossimo anno, è avere un sistema di trasferibilità automatica dove il cliente deve soltanto dare l'ordine direttamente presso la nuova banca e la nuova banca curerà insieme alla vecchia banca e eventualmente ai depositari centrali per i titoli non dematerializzati il trasferimento con successo dal vecchio al nuovo dossier. Questa è una cosa iper complicata, quindi infatti vera, me ne sono accorta, mi sono persa già praticamente al decimo secondo in cui parlava Roccia. Guardi, io la devo lasciare perché è terminato il tempo a mia disposizione, peraltro non riesco neanche a rispondere ad Alessandro dalla provincia di Modena, che obiettava: sembra che dalla vostra trasmissione stia passando il messaggio che le obbligazioni siano più sicure delle azioni. Alessandro, abbiamo detto esattamente il contrario nel corso della trasmissione, però se lei ritiene che non siamo stati abbastanza chiari su questo, magari ci ritorneremo. Grazie molte a Massimo Roccia per essere stato con noi, Consorzio Patti Chiari, a Pietro Poletto e Paolo Zucca. Salvadanaio termina qui, noi ci risentiamo lunedì, buon fine settimana a tutti.